mi guardo indietro un attimo e vedo te. Guardo nel mio presente e vedo ancora te. Non so se questo valga anche per te, ma so che è la mia vita. Non sarebbe uguale senza te, e adesso che lo sai, crescerai, troverai il tuo stile di vita, amerai, soffrirai, ma sarai sempre tu. Penserai, gioirai per le piccole cose e vivrai, invecchierai, ma sarai sempre tu. E andremo avanti e il tempo passerà, e perderemo quell'ingenuità. Per te sarà più facile che per me, perché sei brava a controllare le tue passioni, sogni e le follie, le tue malinconie. Viaggerai, esplorerai i tuoi lati segreti, tornerai alla realtà, ma sarai sempre tu. Riderai, piangerai per i troppi problemi che da sola ti porrai, ma sarai sempre tu. E chissà quante emozioni proverai, sempre tu. Andrai verso orizzonti lontani e il tuo cammino troverai per la felicità. Crescerai, troverai il tuo stile di vita, amerai, soffrirai, ma sarai sempre tu. E penserai e gioirai, ti incazzerai, sorriderai e piangerai, e soffrirai, invecchierai, ed io con te. E viaggerai, esplorerai, ti incazzerai, ed io con te. E crescerai, tu crescerai, e amerai, ed io con te.